Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, buona Pasquetta a tutti. Vigilia di quarti di finale di Coppa Campioni. Domani le partite di ritorno a Mosca e a Barcellona. Dopodomani Manchester-Bayern e Bordeaux-Lione. Ne parliamo con Fabio Tavelli, nostro ministro degli esteri, come sapete. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti e buona Pasquetta. Ecco, buona Pasquetta, auguri. Io direi di esaminare tutte e quattro questi ritorni alla luce di come sono state le partite di andata. E allora, comincerei per l'Inter da questa incognita sintetico, che poi è un'incognita fino a un certo punto, ma insomma Mourinho già sin dalla partita dal dopo partita andata ha spiegato che giustamente l'Inter non poteva provare sintetico prima di giocare con Bologna. Finita la partita con Bologna c'era giusto il tempo di volare a Mosca e di provare a fare un test lì, ma evidentemente di una discreta modestia. Nel calcio di oggi, e più tardi anticipo agli ascoltatori che lo chiederò anche al dottor Volpi da un punto di vista più strettamente scientifico e di preparazione, nel calcio di oggi un cambio di superficie di questo genere, così repentino, può ancora creare problemi oppure ormai il villaggio globale vale anche per questo? La mia risposta è no, nel senso che la tra virgolette scusa del campo è uno straordinario, può essere una straordinaria scusa per il dopo partita, ma non può e non deve diventare, e non credo che voglia diventare un alibi preventivo, nel senso che lo stadio Luzhniki è tra l'altro uno stadio enorme dove si è disputata la finale tra Manchester United e Chelsea, ma non è il campo sul quale abitualmente il CSKA a Mosca gioca. Sì. Il CSKA gioca in un impianto più modesto ed in un impianto che non ha un tipo di terreno di gioco simile. Ha certamente più abitudine, più confidenza con questo tipo di terreno. È anche vero che si tratta di un terreno di ultimissima generazione, che quindi è il più simile possibile a un terreno di gioco come quello dell'erba vera. Poi da un punto di vista medico credo che i tuoi ospiti che verranno dopo di me saranno molto più preparati. Io faccio solo un discorso tecnico, il villaggio globale secondo me permette tranquillamente di considerare reale e non falsata una partita su un terreno di gioco così. Sbaglio o approfittando della Pasquetta sullo sfondo c'è Vittoria? C'è la piccola secondogenita Vittoria che sta. Beh, questo è una nota pasquale di grande allegria e di grande felicità, giuro. Questo assolutamente. È un arricchimento. Fabio, la modestia russa, perlomeno quella che si è vista a San Siro, mi sembra abbastanza oggettiva, soprattutto in fatto di tecnica. Infatti, io raramente ho visto una congrega di ferri da stiro al posto dei piedi come la partita è andata. Quanto è in grado di trasformarsi questa squadra in casa? E lo chiedo a te, perché voi a Sky trasmettete il campionato russo ormai da due anni. E quindi che metamorfosi ha? Poco in realtà, anche perché se proprio vogliamo tornare lateralmente alla questione campo, probabilmente una squadra forte fisicamente ma meno tecnicamente non ha troppo da guadagnare da un terreno di gioco perfetto come può essere quello dell'Luzhniki. Fondamentalmente il CSKA di Mosca è una squadra robusta, è una squadra muscolare, una squadra che ha 2 o 3 elementi tecnici che in un campionato non ricchissimo come quello russo possono fare la differenza, ma che poi a livello continentale si scontrano invece con caratteristiche tecniche diverse, per cui io credo che il CSKA a Mosca debba legittimamente giocarsela e giustamente giocarsela. L'1-0 è un risultato accettabilissimo, Zuzki l'ha detto dopo la partita di andata. È altrettanto vero che nel momento in cui l'Inter dovesse segnare un gol per i moscoviti diventerebbe veramente complicato cercare di ribaltare il risultato. Certo. Il giocatore che era più reclamizzato come Keisuke Honda, poi lo abbiamo visto, nel senso che Honda sì è un giocatore che ci può stare a questi livelli, ma non può essere decisivo a livello di quarti di finale o di ingresso in semifinale. Se dovesse essere decisivo lui, vorrebbe dire che l'Inter ha proprio sbagliato partita. Sì, ho l'impressione anch'io. Fabio, Barcellona. Allora, anche qua, sulla base dell'andata, è chiaro che prima della partita immagino che Guardiola e i catalani avrebbero firmato volentieri un 2-2, che è un ottimo risultato in trasferta. Se poi vinci invece 2-0 a 20 minuti o poco più dalla fine, il 2-2 finale meno. Può incidere questo aspetto psicologico sul ritorno? Sì, anche se penso che il miglior risultato possibile per il Barcellona sia quel cartellino giallo che ha preso Fabregas, nel senso che il Barcellona avrà delle assenze pesantissime, perché perdere i due centrali contro una squadra forte come l'Arsenal non è da tutti, e quindi Guardiola dovrà reinventarsi la difesa. Però l'Arsenal non ha un attaccante centrale così forte. Bentner è un giocatore che cresce di stagione in stagione, ma non è Adebayor, non è Ibrahimovic, e quindi anche senza Puyol e Piqué il Barcellona può farcela tranquillamente. Però è vero, cioè sul 2-0 il Barcellona aveva già chiuso la pratica ed era già pronto per la semifinale. La grande forza dell'Arsenal, la forza morale dell'Arsenal, e in questo noto una grande differenza rispetto alla scorsa stagione, quando l'Arsenal era stato spazzato via e aveva denotato tutti i limiti caratteriali di una squadra molto giovane, e quest'anno invece non è successo, nel senso che l'Arsenal ha avuto grandissimo orgoglio, non ha voluto perdere in casa, ha voluto giocarsela alla pari con Barcellona, e credo che tutto sommato, a parte i primi 20 minuti clamorosi a favore del Barcellona, l'Arsenal abbia fatto una eccellente figura. E poi sai, le partite possono andare in tutti i modi. Io trovo che il Barcellona abbia il 70% di probabilità di passare, 60-70%. Però bisogna stare molto attenti, perché gli altri un gol te lo possono fare e tu magari vai a sbattere contro un muro peraltro relativo, perché Almunia, come ha dimostrato nella gara d'andata, pur parando meglio del solito, un gol te lo regala sempre, quindi mi stupirei tantissimo se il Barcellona non passasse. Cioè, secondo me la semifinale Barcellona-Inter è veramente scritta, non vedo cosa possa accadere. Vediamo allora di scrivere anche l'altra, perché insomma, che una delle due possa essere il Lione dopo il 3-1 in casa dell'andata, va verificato dopo domani sera a Bordeaux, ma insomma si può discutere. Mi sembra più, senza Rooney, mi sembra che sto Manchester Bayern possa essere un po' più aperto. Volevo sentire te. Guarda, senza Rooney la partita è pari perché il Bayern di Monaco è uscito da buche anche più profonde. Il Bayern di Monaco ha sempre preso le qualificazioni in trasferta, anche se poi il contributo di Ovrebo nell'andata contro la Fiorentina fu notevole, però fu il gol di Robben realmente a dare la qualificazione. È su questo che dobbiamo confrontarci. Per quanto riguarda il Bayern, ricorderete tutti che a Torino in dicembre stava dentro una buca discretamente profonda e in trasferta è sempre venuto fuori. Ora, a Manchester non ha l'obbligo di vincere. Il gol di Olic è un regalo del Manchester United. Credo che Rooney sia uno dei due o tre giocatori che possono davvero cambiare i destini di una serie, di una gara andata e ritorno, e non averlo per il Manchester United sarà un grossissimo problema. E quindi a questo punto credo ancora che il Manchester passerà, ma secondo me è davvero 51-49 adesso. Quindi diciamo Manchester / Bayern contro Lione, dici tu, sì, dall'altra parte, sì. Sì, ma anche se non troppo, cioè qui secondo me le percentuali salgono perché il Bordeaux deve vincere 2-0. E io non credo che sia impossibile che il Bordeaux possa vincere 2-0. Penso che però sia difficile che il Lione non faccia un gol. E quindi questo costringerà il Bordeaux a segnarne di più. Credo legittimamente, anche per aver visto il Lione difendersi non male a Madrid, che il Lione sia abbastanza favorito, insomma sia discretamente favorito. Non credo che sia un favore totale, no, però anche qua siamo 60. Certo, io credo che sia tempo che tu ti dedichi a Vittoria a tempo un pochino più pieno, con lei reclama. Con i migliori auguri di Pasqua da parte di tutti noi. Grazie, che contraccambiamo anche noi. A tempo di sport. È buona regola storica dedicare il pomeriggio di Pasquetta agli amici. E c'è uno degli amici storici del nostro programma, in onda, già collegato con noi, il dottor Piero Volpi. Buongiorno Piero. Buongiorno a tutti. Senti, medico storico dell'AICI, medico dell'Inter, consulente UEFA, medico sul campo, pensa che io sono, adesso non vorrei violare la legge sulla privacy, ma sono flagellato da alcune settimane da un ascoltatore di Napoli, di cognome Figliolino, che mi scrive e dice: lei che ogni tanto sente il dottor Volpi, a me risulta che sia stato lui recentemente a operare Santa Croce, e dato che Santa Croce è uno dei miei idoli, io vorrei sapere in che condizioni è e quando finalmente lo rivedremo in campo. Sì, ci sono sono ovviamente dei vincoli per la privacy. Beh, comunque, certo, certo. No, te ormai lo... è una cosa che è uscita anche sui giornali. Sì, lui ha avuto una lesione al menisco, come hanno tantissimi, possono avere tantissimi giocatori, è stata risolta in artroscopia, l'ho infatti operato e adesso dovrebbe essere prossimo al rientro. E purtroppo lui veniva da un altro intervento sull'altro ginocchio che invece era stato un po' più laborioso, aveva richiesto a tempi un po' più lunghi e quindi è questo che è un pochettino ha complicato più che altro la prima fase del campionato, certo, di questo giocatore, perché è fuori insomma in definitiva ormai da alcuni mesi, ma per una sommatoria di due infortuni. Certo, non di questo. Bene, allora il nostro amico napoletano può mettersi tranquillo e pensare che tra poco lo rivedrà. Vado avanti con gli ascoltatori, questa è molto più generica e introduce certamente uno dei nostri temi. Francesco Perri, un romano, dice: sarei curioso di sapere la sua opinione, e io è chiaro che la giro a te perché è vagamente più autorevole, riguardo a tutti questi infortuni, a questa moria di giocatori di squadre di Serie A, e si domanda: sono più i metodi di allenamento, più la severità del nostro campionato, sono più i terreni di gioco, sono anche i terreni di allenamento, come si dice a proposito di Vinovo, cioè che cosa produce questo record mondiale che ogni anno noi riusciamo ad aggiornare in materia di infortuni? Guarda, ormai su questo campo abbiamo un po' le idee chiare, ma anche per gli studi che sono stati fatti e quindi potremmo dire che l'ascoltatore ha ragione, nel senso che si tratta di cause multifattoriali, cioè non c'è una causa unica, certo. Sono più elementi che in associazione determinano questa elevata incidenza di infortuni. E nell'ordine i due più importanti, i primi sono: uno, la fisicità dei giocatori, cioè oggi abbiamo mediamente dei giocatori che gareggiano con strutture muscolari, articolari, cioè sottoposte a grandi sollecitazioni perché sono loro fisicamente più, come dire, prestanti. Un dato, perché poi bisogna ricorrere ai dati, ai numeri, certo. Il campionato di Serie A di 30 anni fa aveva giocatori di media, cioè quindi su 1000 giocatori della Serie A, di 4 kg più leggeri e di qualche centimetro meno alti. Ora dice: questo cosa c'entra? Sarà stata la selezione naturale, sarà stata il fatto che oggi negli anni le squadre, gli allenatori hanno preferito giocatori più fisici che tecnici. Comunque il fatto è che rispetto a oggi diciamo abbiamo questa struttura. Sì. Io faccio sempre l'esempio anche di guardarsi le fotografie delle squadre schierate una volta rispetto a oggi. Come già lì ti dà, non bisogna essere applicare dei metodi rigorosamente scientifici per capire che qualcosa è cambiato. Primo dato. Secondo dato, si gioca troppo. Il calcio una volta si giocava anche la Champions League, se ti ricordi, non a gironi, una partita, con molte pause, e si giocava prevalentemente la domenica e la domenica successiva. Sì. Non c'erano tutte queste, diciamo, manifestazioni che riguardano 7-8 squadre, e quindi questo porta a un incremento. Non c'era spesso, io ho giocato a un girone a 16 squadre in Serie A, quindi ho fatto tempo a giocare a un girone in cui praticamente si giocavano poche partite, perché se ne giocavano 16, 30 partite, non 38, certo. E sono due mesi di attività, perché poi i dati sono lì da vedere, 4 e 4 sono 8 domeniche che tu giochi, quindi due mesi in più. Certo. Se poi questi due mesi, queste 8 partite alle spalle le metti nei turni intrasettimanali, ti rendi conto, oltre alla Champions, oltre alle nazionali, oltre a tutto, capisci che diventa un calendario, i giocatori non fanno tempo a recuperare. E sempre agganciato a questo discorso c'è il fatto che gli allenatori, pur con rose molte ampie, non fanno turnover. E questo è un altro tema che aprirebbe una discussione molto lunga. Però è vero, cioè è un altro dato oggettivo, esattamente come gli altri. Ultimi fattori, ma non ultimi, ma però vanno citati, sono quelli che gli ascoltatori ti hanno segnalato, cioè i terreni, sicuramente italiani in particolar modo, che non sono certamente un esempio di manutenzione del manto erboso, e altri fattori che possono incidere, ovviamente anche i pregressi infortuni che ha un giocatore, la preparazione, che spesso è una preparazione difficile proprio perché giochi troppo e quindi non puoi allenarti e devi solo fare dell'opera di mantenimento. Le preparazioni, altro elemento fondamentale di inizio anno, spesso sottovalutate, ma non perché vengono sottovalutate, ma perché sono imposte da questi ritmi di business che ti portano a giocare dopo 3 giorni un torneo ad Amsterdam piuttosto che a Barcellona. Esattamente, subito sotto i riflettori, non c'è più la gradualità, no, dell'approccio. Ecco. Sono, come vedi, molti elementi sul tavolo che vanno tutti nell'imbuto dell'aumento dell'incidenza, non c'è dubbio. Non sono pochi. Poi, ovviamente, all'interno di questa multifattorialità, come l'hai chiamata tu, all'interno ci saranno, a seconda dei momenti, i più e i meno, no? Immagino. Perché è abbastanza ovvio questo. Senti, sempre io pesco all'inizio, poi magari, cioè, o senza magari ho delle cose io, ma mi piace dare spazio agli ascoltatori che hanno di queste curiosità. Come vedono l'ascoltatore in genere, come vede, non tutti, ma insomma una buona parte, come vede una squadra straniera correre, o correre bene, o correre più delle nostre, una squadra inglese, ok, subito scatta il sospetto, e se non è il sospetto la curiosità, ma come fanno a correre così tanto rispetto a noi? Tentiamo una risposta di questo genere? Sì, questa è già una risposta, come dire, più difficile, perché ovviamente ci sono anche squadre, non dimentichi, noi vediamo magari quando una nostra squadra soffre con una squadra, per esempio, inglese, no? Sì. Però non vediamo magari quando noi, è capitato, nostre squadre hanno messo sotto squadre inglesi anche sul piano fisico. Quindi bisogna ricordarsi anche di quando c'è l'elemento positivo, non solo negativo. Detto questo, devo dire che oggi le preparazioni sono abbastanza uniformate, se non che, per esempio, in Inghilterra c'è ancora una forte predilezione, anche se alcuni tecnici, diversi tecnici sono andati ad allenare in Inghilterra, parlo di tecnici italiani, a, come dire, fare tutto sul campo. Cioè, noi abbiamo un po' un difetto di fare anche un po' di preparazione in palestra, di usare ancora, non so, di usare la sabbia, di usare degli elementi che non sono elementi, come dire, caratteristici del gioco del calcio. Sì. Cioè, nel senso che loro, gli inglesi, anche per spirito, per mentalità, per filosofia, si allenano solo ed esclusivamente, quasi esclusivamente sul campo, e fanno tutto sul campo, e quindi a malavoglia vanno a fare allenamenti in palestra e quant'altro. Questo può essere un dato, un elemento da segnalare. Un altro elemento fondamentale, però, non dimentichiamoci, se ci riferiamo per esempio alle 3 squadre italiane di vertice e alle 3 inglesi di vertice, introduce invece un elemento che secondo me è determinante, che è l'età media, che è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Sì, purtroppo il discorso, anche legato ai risultati delle Champions, e anche degli infortuni, se vogliamo. Cioè, il discorso è questo: se tu hai una squadra che gioca domenica, mercoledì, domenica, più ai nazionali, non hai un'età media relativamente bassa, è difficile per un giocatore di 30 anni fare non le 3 partite, ma fare le 3 partite per 3 mesi, non so se rende l'idea. E quindi, se tu hai una squadra, e le nostre squadre, le prime 3 squadre, Inter, Roma, Juventus e Milan, io ho fatto queste valutazioni, le storiche, probabilmente anche per la Roma, sì, hanno mediamente 2, 3, 4 anni di più della media delle prime 3 squadre inglesi, cioè per intenderci Manchester, Chelsea e Arsenal, certo, nella rosa. Certo. Quindi vuol dire questo, che loro, giocando domenica, mercoledì, domenica, hanno sicuramente 4, 5, 6 giocatori che recuperano prima, perché l'età più bassa significa non solo avere magari più freschezza atletica di un giovane rispetto a un giocatore avanzato, di età avanzata, ma di avere anche un recupero più rapido negli infortuni. Certo, certo. Quindi questo è un dato, un elemento che, per esempio, l'Arsenal, che uno dice ma non vince, sì, però ha sposato molto bene, perché l'Arsenal è la squadra più giovane di tutte queste, con una media di neanche 24 anni. Sbalorditiva, è vero, è vero, nel loro caso sì. E tieni presente che le nostre 3 squadre hanno tutti e 3 delle medie che oscillano tra i 28 anni e mezzo e i 29 e mezzo, cioè la soglia dei 30 anni. Certo. Quindi l'Arsenal dà 5-6 anni alle nostre 3 squadre. Mm-hmm. Sì, sì, è vero, questo è un altro... Parliamo di media, Sì, sì. Quindi vuol dire che per una media di 25-26 giocatori, vuol dire che il livello è veramente basso, la differenza è molto, molto consistente, perché parliamo di dato medio, Certo. Io so che almeno un altro paio di cavalli di battaglia tuoi ci sono, parlando appunto di questi argomenti, perché non è solo una questione di età media, per esempio, è una questione di paragonate agli inglesi, ma in generale agli stranieri, è lo stress come moltiplicatore, mi pare, del mancato recupero, no? Oltre che di infortuni. Cioè, gli inglesi hanno una mentalità, diciamo, molto simile ai giocatori inglesi di calcio, molto simile ai giocatori di rugby. Sì. Cioè loro hanno la testa molto presente, il fisico, il comportamento nella gara. E poi dopo però sono veramente liberi. Noi abbiamo purtroppo un calcio che è molto presente dal momento in cui finisce la partita a quella che inizia dopo. Anzi, comincia. La partita vera, quella dello questo stress. Sembra una banalità, ma ve lo dice uno che ha fatto anche il calciatore. Non certo. È una banalità. Perché lo stress... Ora, purtroppo noi viviamo in un paese dove si parla sempre di calcio, si discute di calcio, si polemizza e ben venga, per carità, però questo lo paghi, io dico, non dico che è sbagliato, però questo ricordiamocelo che va messo nel conto finale di quello che è, uno dice ma come mai si fanno male i giocatori, anche questo incide. Anche perché non riescono a staccare la testa. Io chiuderei questo primo capitolo, perché poi ce n'è, insomma, ci sono agganci e ce n'è un altro altrettanto interessante. A tempo di sport. Pomeriggio di Pasquetta in compagnia del dottor Piero Volpi. Avete sentito quanti rimandi ci sono già stati, parlando di infortuni, parlando di tematiche legate alla medicina nel calcio, quanti rimandi ci sono già stati alla sua carriera da calciatore. Ed è questo che, scusa Piero, non voglio mancare assolutamente di rispetto ai tuoi titoli accademici e ai tuoi studi, ma è questo secondo me che ti fa ancora più credibile in materia, e credo che tu condivida questo concetto. No, assolutamente, perché diciamo questo valore aggiunto, cioè il fatto di avere comunque giocato in questo sport per anni, aver diciamo vissuto anche infortuni, di aver vissuto anche aspetti psicologici, tutto quello che sono diciamo la conoscenza diretta, profonda di questo sport in tutte le sue pieghe, ti porta chiaramente ad avere una facilità anche nell'applicazione poi dopo medica, diciamo. Tant'è vero che proprio detto da un ex calciatore, ripeto, che ha giocato in Serie A, che ha giocato in Serie B, insomma, che ha giocato a livello alto, sentire da te appunto i tuoi cavalli di battaglia, alcuni li hai già enunciati, uno è quello che introduco adesso, e cioè il discorso del telaio e dei cavalli che ci sono nel motore, me lo rende ancora più interessante e credibile, e così agli ascoltatori. Dicevi prima, vediamo una vecchia foto seppiata di una squadra di calcio, possiamo aggiungere rugby, ma restiamo al calcio. Vediamo una foto dei messicani del 70, no? E distinguiamo subito i Rivo, i Burnic, che allora passavano per i maciste, insomma, della squadra. Se li rivedi oggi rispetto a una qualunque squadra dei nostri giorni, Rivo e Burnic sembrano, non dico due impiegati del catasto, ma siano lì vicini. Sì, assolutamente, hai perfettamente ragione. Purtroppo questo è l'evoluzione dello sport, l'evoluzione della preparazione fisico-atletica. Questo vale un po' per tutti gli sport, perché se prendi anche, io ricordo bene recentemente la polemica che c'è stata alle Olimpiadi fra Phelps e Spitz, la polemica, insomma, l'accostamento fra due grandissimi nuotatori che hanno vinto un sacco di medaglie, ma il fisico di uno non ha niente a che vedere col fisico dell'altro. Certo. Se vedete la foto è come la stessa foto di una squadra della nazionale del Messico e la nostra nazionale dei giorni d'oggi, per esempio. Parlano da sole, insomma, non c'è bisogno di mai come in questo caso le fotografie parlano da sole, e questo è dovuto, ripeto, al fatto di questa grande fisicità che si è ricercata in questi anni, cioè di avere degli atleti molto fisici. Questo però purtroppo spesso non è affiancato a una tecnica ugualmente sopraffina, capisci? Certo, e questo certo. Sicuramente, ecco, che fa anche dello sport certe volte, almeno mi riferisco in questo caso al calcio perché non sono un esperto di nuoto, ovviamente questo porta poi a un sacco di problemi. Senti, dottor Volpi, adesso ti faccio un caso, e non è per fare una polemica o per metterti in difficoltà, perché se così fosse, tu tra l'altro sei abilissimo a... Però ti faccio proprio un esempio concreto di infortuni. Quando io ero ragazzo, insomma, quando ho cominciato a fare il cronista sportivo, non è che dovevi studiare medicina, questo no. Però, insomma, seguendo gli allenamenti, oltre che le partite, una nozione un po' precisa te la facevi. E sto parlando di un'epoca in cui non c'erano le strumentazioni di oggi. Certo. Correggimi se sbaglio. Per cui la scala di allora che tu imparavi sul campo, era contrattura, stiramento, strappo, ma si andava, mi pare, a palpazione, no? Si andava, sì, no? Sì. Cioè era un'indagine di quel non genere. Non c'era l'ecografia, andavi solo su una valutazione clinica, boh, e sull'esperienza del medico. Insomma. Allora, quando io una certa sera di, non so più quando, febbraio mi sembra, o inizio marzo, vedo Pato che si irrigidisce di colpo da solo e lascia andare la palla a metà campo, toccandosi dietro e poi crollando a terra, io dico 2 mesi davanti alla TV, no? Ma non perché voglia male a Pato, ma perché, insomma, per le nozioni che ho di allora, e pensando che il corpo umano non sia cambiato, io dico 2 mesi. Quando lo rivedo in campo o comincio a sentir dire boh, dovrebbe giocare tra 8-10 giorni o 12, ok, io penso che stiano facendo una forzatura, uso questo termine per non usarne altri. Poi la forzatura viene fatta, magari non in quei tempi ma poco più, la cosa porta a una ricaduta e credo che alla fine i mesi totali saranno 2 se bastano. Ho detto una scempiaggine o... No, non hai detto una scempiaggine, hai detto una cosa che si verifica, però devo dire, non dico frequentemente, va ricordato comunque che le recidive delle lesioni muscolari non, a torto vengono ritenute una cosa eccezionale. Ricordiamoci che nelle nostre casistiche internazionali oscillano intorno al 20%, cioè vuol dire che ancora oggi un giocatore su 5 va incontro a una ricaduta, quindi non, sì, è una cosa banale, questo per vari motivi. Uno è quello che hai detto tu, perché magari si tende ad accelerare i tempi. Due, perché si tende a sottostimare oggi quella che è la diagnostica, cioè l'ecografia o la risonanza, cioè magari viene sottostimata, non si vede magari una lesioncina piccola o la si sottostima e quindi vengono accelerati i recuperi, oppure perché c'è una fisioterapia, una riabilitazione che magari non è perfetta. Tutte queste cose portano a magari portare poi a pensare che la lesione muscolare sia perfettamente guarita e quindi ad accelerare un po' i tempi e poi ad avere una ricaduta. Però, ripeto, non è, adesso di là il discorso poi eclatante viene sempre legato poi al grande giocatore. Beh, certo, casi certo come questi, se tu sfogli i giornali di oggi, vedi che non dico che in tutte le squadre no, ma ci sono sicuramente altri 5-6 casi come Pato nel professionismo italiano. No, certo, di A e di B. Quindi voglio dire, questo è un dato. Sono d'accordo con te che un buon medico sportivo, come hai detto tu, dalla visione già solo dal campo, dalla panchina o dalla televisione in questo caso, sì, di un arresto improvviso, di un trauma come quello che ha avuto il giocatore, più o meno si fa già una diagnosi, se non è precisa, almeno molto vicino alla realtà. Questo sì, senza dubbio. Parliamo di caschetto, dottore, del caschetto, sì, di Chivu, perché intanto è un caso interessante, perché intanto io considero un mezzo miracolo che Chivu in così poco tempo sia riuscito per fortuna a tornare in campo. Parliamo di caschetto, perché ne ho lette un po' di tutti i colori negli ultimi tempi. Dunque, diciamo innanzitutto che il trauma è un trauma, fortunatamente per il calcio, eccezionale. Non dobbiamo confonderci con i traumi, i colpi di testa, anche gli scontri che ci sono, oppure le fratture nasali, cioè del massiccio frontale, nasale, gli zigomi. Qui stiamo parlando di un trauma che ha interessato la zona parietale, è una delle zone ovviamente della testa più delicate, e quindi lì il primo spartiacque è che non ci sia stata nessuna lesione al di sotto della teca cranica. Quando c'è questo è chiaro che non è che sia un trauma lieve, tutt'altro, però una volta guarita la frattura della parete, della cosiddetta scatola cranica, il giocatore è a posto, quindi sì, voglio dire, per assurdo le protezioni non servono più, perché è come una frattura di gamba. Sì. Se la frattura è saldata, è guarita, il giocatore può tornare a correre, a calciare, a contrastare. Esatto. D'accordo? È chiaro che sulla testa tutti hanno un pochettino di preoccupazioni in più, anche psicologiche, riuscirò a colpire di testa, andare in contrasto con la testa, saltare, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, che sono tutte cose sacrosante, c'è da dire che quando la frattura si è saldata e sotto non c'era, diciamo, nessun elemento di preoccupazione per quello che riguarda la parte cerebrale, il giocatore è ripristinato ed abile. Il caschetto deve essere, secondo me, una cosa eccezionale, cioè per qualche partita, per l'inizio, per l'impatto psicologico. Sì. Perché già, se avete visto nella prima partita, il giocatore ha finito la partita col caschetto slacciato. Sì. Perché un conto è giocare in porta, un conto è mettere un caschetto su cui devi correre, e quindi fai fatica anche nel movimento della testa, proprio del collo, andando avanti e indietro hai proprio difficoltà anche alla respirazione, perché ti blocca la cinghietta, ti blocca praticamente anche certe volte nei movimenti di corsa, sì, proprio la normale respirazione. Quindi, e ti dà fastidio. Quindi quando sento dire, o quando leggo, che visto che il calcio sta diventando sempre più fisico, gli impatti aerei sono sempre più numerosi, un giorno li vedremo giocare tutti col caschetto, leggo una fesseria. Una grossa come una casa. Ah, ecco. Il caso specifico come questo può essere, come, certo, dire, avviato, riavviato allo sport con l'uso di una protezione, e ben venga, ma che venga, da non pensare che venga esteso, anche perché se andiamo nel tecnico, cioè la sensibilità dei colpi di testa la perdi tutta. Allora, quando tu devi fare un passaggio, devi smorzare una palla, devi spizzicare una palla con su qualsiasi protezione, non riesci a farla. Perché perdi la sensibilità. Come se tu calci, certo, un pallone con un gesso, con una scarpa di gesso. Con i piedi, cioè, come quelli del CSKA, insomma, si fa fatica. Insomma. Capisci? Quindi, certo, ben venga sulla protezione specifica di un caso particolare per qualche primo periodo, per diciamo, dare un supporto psicologico, coperta di Linus, se vogliamo, no? Anche, esatto, un pochino, ma che non venga a essere esteso a protezione universale, perché sarebbe una sciocchezza, cioè verrebbe snaturato per quello che è una delle sue gestualità migliori, che è il colpo, certo, di testa. E non so se rendo l'idea. L'hai resa perfettamente. Ti dico un'altra cosa: in Danimarca qualche anno fa, sulla scorta di alcune richieste di alcuni college, scuole dove praticavano il calcio, sì, da piccoli, le mamme chiesero di mettere i caschetti ai figli perché si erano verificati diversi traumi alla testa dei bambini. Ecco, questo è un tema diverso, perché il bambino, per chi ovviamente ha esperienza di conoscenza di calcio giovanile piccolo, sì, molte volte non ha la sensibilità dell'adulto nella frenata, nell'impatto, e quindi sbattevano più per incapacità della gestualità che non per un trauma come quello che capita ai professionisti. Lì eventualmente si può discutere se la cosa hanno messo il caschetto e dicono che hanno avuto una riduzione di quelli che sono traumi da contatto fra i ragazzi. Però questo ha una finalità diversa, una finalità di protezione su un organismo in crescita. Capisci che siamo certo, di fronte a due problemi completamente diversi. Abbiamo passato una buona parte di pomeriggio in compagnia del dottor Volpi e credo che gli ascoltatori avranno preso nota con attenzione di molti degli spunti e di molte delle tue riflessioni, ripeto, da ex calciatore e oggi da celebre traumatologo. Grazie Piero. Grazie a te, buona giornata a tutti. A tempo di sport. Ultima parte di questo appuntamento di Pasquetta, dopo che le notizie sul traffico vi hanno ulteriormente aggiornato sull'evoluzione, e ripeto che questi sono giornate, per l'appunto, in cui le notizie sul traffico sono certamente le più importanti che possono arrivare in tempo reale da una radio. L'appuntamento con Sembra Ieri lo rispettiamo regolarmente anche oggi, per gli ascoltatori, come dire, festivi e quindi non particolarmente avvezzi alla scaletta di questo programma, vi ricordo che Sembra Ieri è una rubrica curata da Nicola Filippone, che pesca in quel giorno e mese, di quel giorno e mese va a pescare un anno in cui è successo un avvenimento sportivo di particolare interesse o curiosità. Quello di oggi è abbastanza datato e, giusto per fare, insomma, per introdurre almeno un'anomalia nel Sembra Ieri Classico, il testo e quindi la ricerca è di Nicola Filippone, la voce invece oggi eccezionalmente è di Flavio Suardi. Sentiamo. Sembra Ieri. 5 aprile 1942. In una delle rare apparizioni nel corso della guerra, la nazionale affronta in amichevole la Croazia a Genova. Il CT Pozzo fa le prove per un futuro che le circostanze belliche rendono indefinibile, affiancando ai campioni del mondo Foni, Rava, Andreolo, Biavati e Ferrari II, un manipolo di giovani promettenti. Quattro tra i debuttanti di Genova faranno in seguito parte del Grande Torino. Si tratta di Valentino Mazzola e Loic, all'epoca in forza al Venezia, Grezar della Triestina e Gabetto, che già vestiva la maglia granata. Grezar e Gabetto lasciano subito il segno in azzurro con un gol a testa. Le altre due reti portano invece le firme di Biavati e Ferrari II. Beh, l'ho detto che sarebbe stato una cosa d'autore. Oggi, come avrete capito, essendo un giorno festivo, ma festivo vero, il centralino di Radio 24 non è in funzione, quindi non posso evidentemente introdurre le vostre telefonate e allora ho pensato di selezionare alcune delle mail più interessanti arrivate nell'ultimo periodo. Per esempio, Umberto Raimondi, interista doc, ha scritto, dopo Roma-Inter, ha scritto: due anni fa il momento che decise il campionato a favore dell'Inter fu il gol del pareggio a San Siro di Zanetti nei minuti finali della partita. Quest'anno quel tiro di Milito all'ultimo istante finito sul palo mi pare rappresenti un brutto segnale. Pare anche a me, Umberto, nel senso che non è detto che sia poi così altrettanto determinante, ma è indubbio che se uno vuol prendere dei segnali sul genere aruspici, beh, insomma, quello qualcosina voleva dire. Franco Ferrarini, parmigiano, ha scritto dopo non quest'ultima partita di campionato, ma dopo la precedente, in cui si era parlata di sciopero delle curve della Juventus e poi con tutto quello che è successo di contestazione, episodi, Zebinà, Del Piero che parlamenta. Quando ho saputo dello sciopero delle curve bianconere, ho pensato che se quella misura fosse stata mantenuta sine die avrei finalmente rifatto l'abbonamento allo stadio. Ero ingenuamente fiducioso, mi sarei aspettato, dopo quel gesto di quel manigoldo teppista squilibrato nei confronti di Zebinà, mi sarei aspettato che i giocatori avessero incrociato le gambe loro stavolta di fronte a un attacco così violento. Di più, mi aspettavo una presa di posizione dura della società. Avrei dovuto sapere invece che non ci sarebbe stato, e adesso, dopo aver anche sentito le parole di Bettego, ho ricambiato idea. Niente stadio e probabilmente basta anche calcio, non ne vale più la pena. Un ascoltatore particolarmente sconfortato, direi. Tra queste mail, a proposito di Juventus e di questo momento storico difficile, inserirei una lettura. Beh, questa è una lettura d'autore, vero, perché in genere va al contrario. Vittorio Sermonti è il dantista d'Italia, studioso, divulgatore di Divina Commedia al livello più alto possibile, e quindi Inferno, Purgatorio ed ex Paradisi Bianconeri visti da un tifoso illustre quale Vittorio Sermonti. Questo è un servizio che l'ANSA ha pubblicato nei giorni scorsi, l'ho trovato molto interessante. Vittorio Sermonti è un tifoso juventino storico che dice, tra l'altro: quella della Juventus è una crisi molto profonda che non riscontravo dal 1968, stiamo parlando quindi di 42 anni fa. Nel 68, ricorda Sermonti, la Juve andava anche peggio di adesso. E siccome io sono legato a questa squadra dal 1937, no, il che significa una militanza discreta, l'ho vista in acque infinitamente peggiori, però è indubbio che tutti noi juventini ci fossimo abituati bene. Allora, con lui l'intervistatore fa ovviamente il gioco dantesco di non tanto di paradiso, perché in questo momento non è possibile, ma di purgatorio e inferno. E Sermonti manda direttamente all'inferno il pubblico della Juventus di Torino, dicendo testualmente: a me fa schifo. Posso andare a vedere la Juventus, ma mai a Torino, mentre 20 anni fa avevo anche la tessera e ci andavo tutte le sante domeniche. Il razzismo è un dato secondario, è una forma di imbecillità qualsiasi, continua Sermonti, perché è anche vero che quando giocava Thuram non gli davano del negro. Io non parlerei di razzismo, perché il razzismo è una cosa terribile e seria, e questa è una cosa terribile che sta facendo la Juventus, ma non seria. Questa invettiva del dantista continua poi contro, virgolette, quelli che continuano a fischiare la squadra, perché come se la squadra dovesse a loro lo scudetto, e sottolinea: questa enfatizzazione, questa elefantiasi dei diritti dei tifosi a me fa così schifo, e ripete questa parola, che allo stadio non vado più. Sentirmi intruppato in qualche modo con questi imbecilli veramente mi fa orrore, non li voglio vedere e mi fa specie che sventolino queste bandierone bianconere che sono invece così belle. Beh, mi pare che ci sia in questo sfogo, in questa invettiva di Vittorio Sermonti, tanta passione antica, tant'è vero che risale 1937, come lui stesso dice, e ci siano anche parole forti che ogni tanto è giusto, è comprensibile perlomeno che vengano usate. Ancora una mail, Andrea Turchi, poi da domani ovviamente ricominceremo a parlarci in diretta con il ritorno regolare delle trasmissioni e delle modalità che le guidano. Andrea Turchi da Firenze aveva scritto sempre nei giorni scorsi una mail molto interessante. La sua trasmissione mi ha provocato ieri, e questa mail era dei primissimi di marzo, del tutto involontariamente un accesso di riso. Buon segno, visto il mondo in cui viviamo. Il fatto è che la stavo ascoltando mentre guidavo, senza nemmeno troppa attenzione in quel momento, quando ho sentito un suo ascoltatore dire che Mourinho gli ricordava Rocco e che anzi trovava molti punti in comune tra i due allenatori. Nel silenzio che è seguito dopo quell'affermazione, io mi sono immaginato la sua espressione, la sua ricerca immediata di una pastiglia o di 20 gocce di tranquillante, nella peggiore delle ipotesi di una camomilla. Il fatto è che l'ascoltatore poteva portare mille esempi comunque assurdi, ma proprio Rocco da paragonare a Mourinho mi sembra troppo. Adesso attendo con impazienza, concludeva questa mail firmata, ripeto, da Firenze, Franco Turchi, chi le proporrà un parallelo tra Aldo Biscardi, ovariale a scelta, e Gianni Brera. D'altra parte, la vita è tanto breve, sono così poche le occasioni per divertirsi. Caro Andrea, io sì, in effetti, se lei ricorda, ero discretamente inorridito di fronte a quello, però lei ha colto l'aspetto divertente, no? di questi paralleli, perché ogni tanto, e d'altra parte, quando si parla di personaggi scomparsi, come nel caso di Rocco da 31 anni, è ovvio che i confini si perdano. A me è capitato anche in passato di sentire e di leggere, questo lo dico non più da sportivo ma da melomane, mi è capitato di sentire o di leggere, dicevo, di Andrea Bocelli come del nuovo Caruso. Beh, siamo sullo stesso livello, credo, di quello che ha citato lei o di altri possibili ancora. Ci vuole molta pazienza in questi casi, ce n'è voluta anche da parte vostra, io credo, per farvi fare compagnia, come sempre, secondo questo schema abbastanza collaudato, in una giornata festiva come la Pasquetta. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi con Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è per domani.